Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Prove di dialogo tra Unione Europea e Mosca dopo le sanzioni per la vicenda ucraina. Il portavoce della Commissione Europea, Margaritis Schinas, questa mattina ha confermato. Yes, I can indeed confirm that President Juncker has been invited and plans to participate. Il presidente Jean-Claude Juncker è stato invitato al forum economico di San Pietroburgo il 16-18 giugno prossimo e ha pianificato di partecipare. Juncker ha aggiunto userà l'appuntamento per riferire sulle prospettive delle relazioni tra Unione Europea e Russia e a proposito delle sanzioni ha aggiunto il G7 la scorsa settimana ha ribadito che sono legata alla piena attuazione degli accordi di Minsk su un possibile bilaterale tra Juncker e Putin. La risposta avranno modo di vedersi, l'agenda comunque non è ancora definita. Potrebbe arrivare presto invece la multa più salata mai decisa dall'antitrust europeo. Nel mirino un presunto cartello tra produttori di camion sotto accusa Daimler, Iveco, Volvo, Renault, sui quali la procedura è iniziata nel 2014. Secondo il Financial Times la decisione sarebbe vicina. La multa potrebbe superare gli 1,4 miliardi di euro affibbiati nel 2012 ad un cartello di produttori di TV a tubo catodico. Ad oggi la multa più salata. I nuovi centri d'accoglienza costruiti per i rifugiati a Idomeni non rispettano gli standard internazionali, bocciata dunque la Grecia, almeno da Tinke Strik, parlamentare socialista olandese, relatore sull'immigrazione all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ieri ha visitato anche altri centri. Non cedere sui diritti di fronte alla crisi dei profughi, dice intanto la relazione dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali. Oltre 1 milione di persone ha cercato rifugio nell'Unione nel 2015. Ma, si legge, gli Stati membri devono mantenere comunque una posizione risoluta nel difendere i diritti che spettano a tutti, indipendentemente dal fatto che abbiano vissuto in Europa per generazioni o siano appena arrivati. E a proposito di abitanti dell'Unione Europea, un quarto nelle grandi città europee a rischio povertà o esclusione sociale, il dato pubblicato da uno studio di Eurostat. Rischio più alto, si dice, nei grandi centri urbani rispetto alle zone rurali. Il tasso di occupazione tra quanti vivono nelle città europee è del 70%, ma sono comunque oltre 50 milioni le persone che vivono nelle grandi aree metropolitane a rischio di povertà. I paesi più esposti: Grecia, Belgio, Austria, Romania e anche l'Italia. E oggi per le città arriva il cosiddetto patto di Amsterdam. Si conclude oggi in Olanda il lungo percorso che ha portato alla definizione della Agenda Urbana Europea. I ministri europei responsabili delle politiche urbane firmano infatti in queste ore il Patto di Amsterdam, che è il documento chiave dell'agenda su cui ha duramente lavorato il governo dei Paesi Bassi in questo suo semestre di presidenza dell'Unione. L'obiettivo è ridare peso e slancio alle politiche per le aree urbane europee, che affrontano sfide nuove e vecchie, difficilissime, da quelle imposte dalle migrazioni ai cambiamenti climatici e la disoccupazione. Il metodo di lavoro suggerito è quello della rete, della collaborazione. Il patto prevede infatti la formazione di partnership tematiche, alle quali sono chiamati a partecipare Commissione, Stati e città. Le prime 4 macro aree di lavoro saranno qualità dell'aria, housing, povertà, inclusione di rifugiati e migranti. Con l'occasione si riunisce ad Amsterdam anche il Comitato Europeo delle Regioni, presieduto dal governatore della Sardegna Pigliaru, che, sottolineando il ruolo fondamentale degli enti locali nella realizzazione degli obiettivi che si prefissa l'agenda, chiede che tutte le politiche del settore siano effettivamente coordinate e che quindi sia stabilito un percorso vincolante che consenta alle città di partecipare all'elaborazione della legislazione che ha un impatto sulle aree urbane. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'Europa vi aspetta. L'appuntamento, come sempre, questa sera alle 21. Effetto notte è lunedì. Vi aspetta Youson. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.